Oggi butterazzi seguite queste indicazioni. E vengo poi anch'io, dai, trascinami se non ce l'ho, vediamo. Immagino. No, ho le dita bagnate.